9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 15 di febbraio. San Faustino e Giovita, tra l'altro protettore di Brescia. Oggi ci occupiamo di un tema che riguarda l'università del post-riforma Gelmini. E nel post-riforma Gelmini un tema ha iniziato a diventare interessante, almeno per me. Lo traiamo da un articolo comparso su Repubblica sabato 12 febbraio. Il titolo di questo articolo era "E l'università da battaglia e fuori corso, Palermo e Senato accademico, troppi irregolari, obbligo di laurea entro il 2014, ma è polemica. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che nei meccanismi del fondo che ha disciplinato per anni il finanziamento alle 75 università pubbliche italiane si faceva considerazione unitaria degli iscritti alle diverse sedi universitarie, senza distinguere tra quelli in corso e quelli fuori corso. Con la riforma Gelmini uno dei tantissimi criteri introdotti è quello della distinzione, appunto, perché tra gli indici che danno di valutazione delle diverse sedi, il discorso è lungo, bisognerà poi vedere come verranno fatta questa valutazione, come la valutazione degli insegnamenti attraverso l'AMBUR e così via. Comunque vi sarà anche il criterio di efficienza del numero degli studenti in corso, e da questo punto di vista quindi la prospettiva di ottenere, gonfiando il numero di iscritti anche con i fuori corso, più finanziamenti, è una prospettiva che appartiene al passato. Ecco perché alcune sedi universitarie, che per via della maggiore quantità di fuori corso cadono nella graduatoria nazionale di valutazione, iniziano a mettere mano ad alcuni provvedimenti, e tra questi appunto il Senato Accademico di Palermo ha pensato di fare una distinzione, e quindi il Senato Accademico ha varato nei giorni scorsi una stretta ai fuori corso a partire da quelli iscritti al vecchio ordinamento, quello delle lauree quinquennali, per i quali si chiede che di completare gli studi entro il 2014. Quelli invece iscritti alle triennali dovranno finire entro il quarto anno fuori corso. Questo tema, questo di alzare le tasse e porre un limite oltre il quale non si può più restare iscritti ai fuori corso, era ripercorso come un fiume carsico, era riapparso come un fiume carsico di quando in quando nei temi della riforma Gelmini, anche se poi altri avevano preso piede, soprattutto l'attenzione preponderante è andata ai ricercatori, ricordate. La domanda che io vi faccio è: poiché nel nostro ordinamento universitario il numero dei fuori corso è pari al 37% dei 1.700 o del 1.700.000 iscritti, ed è quindi un fenomeno che non ha equivalenti in nessun paese avanzato, che atteggiamento bisogna avere secondo voi? È giusto adottare un criterio per il quale si alzano le tasse, si pone un limite oltre il quale non si può rimanere iscritti, oppure no? Io rispondo subito a un ascoltatore che quando ho posto la domanda lanciando la trasmissione mi ha detto: vergogna, sei il solito finto liberista d'accatto, vuoi fare il finto liberista, poi poni veti e dici di cacciare. Io sottopongo all'attenzione di tutti il fatto che questi fuori corso ci costano. Non è che io voglio porre il veto, capite, perché non voglio consentire a chiunque di iscriversi per il numero di anni che vuole all'università, lo facesse a spese sue. Ma non lo fa a spese sue, fa a spese nostre. Questo è sempre il criterio che dimenticate quando c'è questa definizione di pubblico nel nostro paese, che c'è chi paga, cioè siamo noi, siete voi. Se a voi non interessa, a me interessa, perché pago molto e dal mio punto di vista pago troppo, anzi. E dunque mi chiedo se questo tema, con il giusto equilibrio, non debba rientrare in un approccio diverso, cioè quello di alzare le tasse e me porre anche un tetto limite oltre il quale la dispersione del numero di anni per il corso e per il diploma universitario divenga poi una barriera invalicabile. Il dibattito è aperto, in quella stessa pagina di Repubblica c'era un intervento del rettore di Roma, Luigi Frati, che diceva: è una scelta sbagliata, non siamo un business, e giustificava il fatto che poi a Roma si considerano fuori corso la Sapienza e l'università con la maggior percentuale di fuori corso, anzi tra le più elevate. elevata e non proprio la più elevata, però il rettore poi spiegava, dice, perché noi nel primo anno non li consideriamo fuori corso. Quindi, detto tutto questo, io vi chiedo di intervenire facendo telefonate, iniziamo a vedere gli ospiti come la pensano e come ci spiegano la loro posizione. Allora, noi abbiamo il rettore di Palermo, che stiamo cercando a telefono, ma il collegamento mi dicono che arriva tra pochi secondi, il rettore dell'unità di Palermo, Roberto La Galla. Io comincerei con la professoressa Maria Paola Potestio, che insegna economia a Roma 3. E la professoressa Potestio è stata una attenta esaminatrice, per così dire, della riforma Gelmini sul sito che cito spesso per gli molti amici che vi scrivono sopra, noisefromamerica.org, e che ogni tanto, vi prego, date un'occhiata insieme al mio www.chicago-blog.it. Professoressa Potestio, lei come la pensa su questo? Su questo tema, è giusto, è una buona strada prendere queste misure, oppure in realtà i problemi dell'università italiana, come si suol dire, sono ben altri rispetto al 37% di fuori corso? Ma guardi, posso? Allora, che i problemi dell'università italiana siano anche altri e che questi altri problemi siano molto molto gravi, questo lo ritengo un dato di fatto. Ma fatta questa premessa, sicuramente anche la questione dei fuori corso è importantissima. Quali sono le cause e che cosa si può fare? Ma le cause io le individuo forse in un'assistenza agli studenti che ha qualche carenza. Non sono i nostri studenti probabilmente così seguiti e così assistiti nel loro corso di studi quanto sarebbe opportuno. Ma soprattutto vorrei sottolineare un altro aspetto, ossia i nostri corsi di laurea sono costruiti forse con delle carenze non irrilevanti di coordinamento tra gli insegnamenti, e questo ha reso tradizionalmente, e anche con il 3+2, i corsi di laurea più difficili di quanto avrebbero dovuto essere, di quanto avrebbero potuto essere. Credo, ecco, che questi due elementi siano alla base di un fenomeno di questa portata. Detto questo, io credo che porre un limite di tempo alla conclusione del corso di studi sia una cosa assolutamente accettabile. Aumentare le tasse, su questo avrei qualche perplessità invece, perché in realtà lo studente fuori corso per i servizi che l'Ateneo gli deve dare non pesa così tanto come gli studenti regolari, diciamo. Ecco, quindi che debba pagare di più per servizi di cui in linea generale ha meno bisogno mi sembra un po' una stranezza. Sarei invece senz'altro favorevole al porre un vincolo di tempo al completamento degli studi. Ecco, se posso dire, prego. Un'altra cosa però che è molto importante, guardi che la riforma delle riforme del sistema universitario è l'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Si figuri se lo deve dire a me. Se si arrivasse a questo, le assicuro che la questione di fuori corso, la serietà con cui gli studenti affrontano l'università e direi anche la serietà con cui i docenti organizzano i propri corsi di laurea, ecco, ne trarrebbero enorme giovamento. Il problema forse non sarebbe superato, ma sicuramente sarebbe notevolmente ridotto. Parole auree che sottoscrivo a piene mani, ma che quindi ci rendono ancora più minoritari in questo paese. Comunque, chissà, un giorno o l'altro. Ci ha raggiunto nel frattempo il rettore dell'Università di Palermo, Roberto La Galla. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questa misura che fa discutere, voi quanti fuori corso avete e come vi siete, come il Senato Accademico è divenuto a queste decisioni? Ma noi abbiamo in linea con il niente, mi pare di capire che il collegamento, siccome la Sicilia è lontanissima, ogni polemica rispetto al fatto che ieri abbiamo fatto una puntata sulle coperture, noi parlavamo Inter, alta velocità, ma come vedete qui siamo ai ponti mobili di radiotelefonia che non funzionano, quindi vediamo un secondo che mi dicono, niente, non ci siamo ancora, ci siamo ancora forse, pochi secondi, proviamo, professore, allora ricominciamo. Buongiorno, ma guardi, il fenomeno dei fuoricorso è un fenomeno che attraversa tutto il sistema accademico italiano. Ovviamente è molto più pronunciato al sud, dove il livello motivazionale è certamente ridotto in funzione del posteggio che molti studenti configurano all'interno dell'università. E noi abbiamo un numero di fuoricorso che supera i 25.000, quindi circa un terzo della popolazione studentesca complessiva, e il provvedimento che in questi giorni ha suscitato così ampia discussione va peraltro nella linea che chi è intervenuto prima di me ha rilevato, cioè noi attueremo la decadenza degli studenti al 2014, assistendoli peraltro nel passaggio ai nuovi ordinamenti, ma soprattutto semplificando il loro percorso formativo attraverso un'azione di tutorato speciale che partirà già dal prossimo mese di aprile, per la quale fino a questo momento abbiamo fatto un rilevamento di tutte le materie scoglio nelle varie facoltà. Io reputo che stazionare all'università per 10-12 anni è certamente una responsabilità dei docenti, che stiamo responsabilizzando anche attraverso un taglio dell'offerta formativa, è certamente una responsabilità del 3+2 che non ha reso i risultati che doveva rendere nelle previsioni, ma è certamente un danno per il Paese, perché conoscenze acquisite in un arco di tempo così lungo inevitabilmente vanno incontro ad obsolescenza, riducendo la competitività complessiva del sistema paese. Le posso chiedere una cosa, Rettore? Alcuni suoi colleghi di altre sedi sono violentemente contrari a questo tipo di impostazione e naturalmente dicono il difetto sta nel manico del coltello, cioè nel fatto che con la riforma i fuoricorso vengano distinti come criterio per l'attribuzione dei finanziamenti, in quanto adottando questo criterio meramente economicistico, per così dire, ci sono state dichiarazioni in questo senso del rettore dell'Università di Pisa, di quello che dicono è come ledere il diritto fondamentale, il diritto allo studio. Io non la penso così, ma la questione, secondo lei, di una articolazione dei corsi sufficientemente concentrata nel tempo per preservare anche appunto l'efficacia del trasferimento della formazione del capitale umano, perché se non è così, lei come l'ha appena detto, io credo che uno degli obiettivi dell'insegnamento universitario si perde quando si fa in 10-12 anni. Tutto questo, secondo lei, con il diritto allo studio, che attinenza ha? Ma guardi, io le dico subito, nella mia pregressa esperienza ho avuto anche l'avventura di fare l'assessore regionale alla sanità, laddove sì, inevitabilmente si ponevano tagli e razionalizzazioni, veniva immediatamente contrapposta a questa la violazione al diritto alla salute. Ora, il diritto alla salute, così come al diritto allo studio, è certamente un principio fondante della Carta Costituzionale, ma non può essere realizzato ponendo un ospedale sotto ogni casa, un'università in ogni borgo e mantenendo le persone dentro un'università per un tempo tale da depotenziare il proprio il capitale umano e la capacità competitiva per il paese. È chiaro che sarebbe un atteggiamento lesivo del diritto allo studio se noi non portassimo avanti contestualmente un percorso e un processo di protezione di questi studenti e di assistenza didattica mirata di questi studenti. Quindi, tra l'affermazione del principio e la declinazione dell'azione c'è certamente in mezzo un atto di volontà e di impegno dell'Ateneo a sostegno degli studenti e non contro gli studenti. Professoressa Potestio, lei come risponde alla domanda qui è in questione un diritto degli studenti? No, guardi, questa questione del diritto allo studio è altra cosa, non c'entra nulla. Del resto poi il riferimento che è stato fatto a per quanto riguarda Palermo, l'ammissione di 4 anni di fuoricorso, ecco, mi sembra un tempo effettivamente molto lungo. 4 anni di fuoricorso sono veramente tanti. Superare questo un limite, allungare diciamo ulteriormente questo limite mi sembrerebbe privare il corso di studio di serietà, ecco, francamente. Quindi il diritto allo studio è un'altra questione. Ammettere, ripeto, che si possa concludere il corso di studi con un periodo di fuori corso già così corposo, come sembra il massimo che si possa fare. Il diritto allo studio è un'altra questione. Oh, abbiamo in linea anche il rettore dell'Università di Pisa, il professor Massimo Mario Augello. Buongiorno rettore. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco, posso chiedere qual è invece la sua impostazione su questo tema, il fuori corso, giusto o sbagliato distinguere per l'attribuzione delle risorse all'università nel Fondo Nazionale, limiti temporali aggiuntivi oltre i quali si decade o anche aumentare le tasse? Ma guardi, io credo che ogni università si muova con una certa autonomia sulla base anche delle caratteristiche, delle peculiarità, dei numeri. I piccoli atenei possono seguire strade che sono a volte precluse ai grandi atenei, non è indifferente il problema del numero. Si sta discutendo molto di questo problema sollevato dall'Università di Palermo. Io devo dire che i dati credo che siano mediamente simili, insomma, sento parlare di percentuali che oscillano tra il 35 e il 40%, non credo che sia un problema di mancato finanziamento da parte del Ministero. Il problema forse può essere legato più al problema della qualità dei servizi che gli atenei devono fornire, quindi la qualità della didattica, avendo un numero così elevato di studenti che non sono attivi. La discussione poi riguarda, per quanto riguarda il finanziamento ministeriale, è differente, perché il Ministero non considera studenti attivi quelli che non hanno dato almeno 5 CFU, 5 crediti formativi in un anno. E qui ogni università ha le sue peculiarità da questo punto di vista. Quindi l'Ateneo di Pisa non penalizza i fuoricorso nel senso di non chiedere loro una contribuzione maggiore, ma è un problema che dovrà col tempo essere affrontata, proprio perché la qualità dell'offerta didattica può risentire di questi numeri elevati. Il problema del diritto allo studio è un problema consistente. I fuoricorso spesso sono persone che lavorano, che hanno delle attività, non è un caso che il numero dei fuoricorso sia particolarmente concentrato in alcune facoltà piuttosto che in altre, dove forse è compatibile il ruolo, la figura dello studente lavoratore, del lavoratore con quello di studente, insomma, per intenderci. Quindi è una cosa articolata su cui riflettiamo e se in un prossimo intervento posso sviluppare un ragionamento che riguarda anche la politica del Ministero sul finanziamento, mi farà molto piacere. Certamente. Professoressa Potestio, facciamo una breve riflessione, chiedo a lei e al rettore di Palermo nei tre minuti prima della fine della prima parte della trasmissione. Una breve riflessione: comincia adesso la fase attuativa della riforma Gelmini, a cominciare anche da quella proprio attuativa delle singole università. Lei mi pare che sia abbondantemente scettica o sbaglio? Scettica sulla riforma? Sulla fase attuativa, sì, della riforma stessa. Ma guardi, questo non lo so, insomma, c'è qualche segnale che colgo che sì, mi lascia un pochino fredda, poi vediamo come sarà attuata questa riforma. Il segnale un po' di freddezza deriva da così qualche notizia che giunge sulla formazione degli organi che dovranno varare i nuovi statuti degli Atenei. Ecco, cioè, l'auspicio che posso fare è che appunto i nuovi statuti siano redatti in modo da sfruttare positivamente quei margini di flessibilità che la riforma consente, possano contribuire quindi i nuovi statuti a una svolta, diciamo, a un miglioramento nella organizzazione degli Atenei. Questo poi saremo a vedere. Lei, diciamo, i sei anni del rettore Monarca non li avrebbe voluti, insomma. No, assolutamente no, assolutamente no. Questo è un altro discorso. Ecco, io la mia perplessità un po' sulla riforma riguarda la linea strategica della riforma, una linea strategica della riforma, forse la principale. linea strategica della riforma è quella di puntare sul rafforzamento della governance centrale degli Atenei. Io non ritengo che questa sia una linea strategica positiva, credo che sarebbe stato meglio puntare su una maggiore autonomia e responsabilità delle unità di base della ricerca, vale a dire i dipartimenti, sottraendoli un po' alle tante mediazioni proprio del governo centrale. Comunque staremo a vedere, con l'ottimismo, la speranza non devono mai mancare. Se posso aggiungere in un secondo una sintesi, diciamo, una considerazione un po' sintetica e sbrigativa rispetto al quesito che lei poneva prima, ecco, io direi che il diritto allo studio non può essere inteso come diritto di rimanere in università 10 anni per completare un corso di studio. Ma il problema, l'ultima osservazione che chiedo al rettore di Palermo, che poi ci deve lasciare, è che dal mio punto di vista, nella mia esperienza universitaria, io sono andato molto fuori corso nella prima laurea perché studiavo, nella seconda no, perché poi avevo gli esami generali del primo che mi agevolavano, quindi dichiaro subito che non mi metto nessun cappello da primo della classe. Detto tutto questo, però, il diritto allo studio, secondo me, qua nel nostro paese noi lo intendiamo come mense, aule, qualità degli ambienti, molto meno, devo dire, qualità tecnologica dei servizi per la formazione, quasi niente lo decliniamo come qualità della formazione in termini comparati. Cioè, il vero diritto allo studio, secondo me, si misura con unità di tempo minore di assunzione al mercato del lavoro, di ingresso positivo al mercato del lavoro per i laureati, e con le più alte retribuzioni per i laureati comparati per diverse università. Quello vuol dire che è un diritto allo studio che viene misurato e comparato su cose concrete. Da noi invece si fa una specie di discorso come se si trattasse dei servizi che funzionano sul treno dei pendolari, il diritto all'università. A me sembra un'impostazione totalmente demenziale, ma questa è della mia esperienza universitaria che evidentemente mi ha dato un'impostazione sbagliata. Chiedo al rettore di Palermo cosa ha contribuito a questa idea del diritto allo studio confuso con la fruizione di servizi immobiliari, per così dire. Guardi, il concetto di diritto allo studio è un concetto particolarmente complesso e, come lei stesso ha ricordato, estremamente articolato, che va dal fondamentale riferimento alla qualità della didattica e alla competitività del titolo di studio fino alla rete dei servizi posti a sostegno degli studenti più bisognosi e meritevoli. Però, ecco, mi fa piacere che in linea generale si sia raffreddato questa ipotesi di attentato al diritto allo studio che l'Università di Palermo avrebbe arrecato. Vedi che oggi chi le ha sparato contro su Repubblica mi sembra che parli con tutt'altro tono, ecco. Ecco, credo che l'Università di Palermo abbia avuto in questo, bene diceva Augello quando diceva, è una riflessione da fare. Noi abbiamo avviato questa riflessione nell'interesse proprio di un diritto allo studio correttamente declinato, al di là dei fatti econometrici, quanto piuttosto nel rispetto della dignità e della qualità, della dignità dello studente e della qualità degli studi. Voglio aggiungere, non abbiamo aumentato le tasse, ma abbiamo migliorato i servizi a favore degli studenti fuori corso. Siamo in una condizione per la quale stiamo facendo una sperimentazione per riportare questo nostro Ateneo alla dimensione che è la sua dimensione fisiologica, cioè una dimensione da 40-45 mila studenti, dove l'attività dei docenti e le opportunità per i discenti possano essere significativamente migliorate. E poi, se mi consente, perché nessuno solleva il problema del diritto allo studio che qui è impropriamente sollevato, quando certamente nel concetto di diritto allo studio ci sta l'universalità dell'accesso al sistema universitario e invece sostanzialmente si va costantemente in linea col numero programmato per effetto dei rapporti numerici tra docenti e discenti che sono fissati dalla legge. Come vede è un tema, è un terreno estremamente vasto ed estremamente scivoloso certo, nel certo. Quale ognuno evidentemente cerca di trovare soluzioni che possano garantire la sostenibilità in termini qualitativi della propria azione. Ora devo interrompere perché c'è la pubblicità. Eccoci tornati in studio con i nostri ospiti. Il tema di oggi è fuori corso, mettere un limite per l'esaurimento del loro ciclo di studio, aumentargli anche le tasse. Siamo partiti con i provvedimenti assunti dal Senato Accademico di Palermo. C'era il rettore di Palermo, il professor La Galla, che stava concludendo, perché l'ho interrotto per la pubblicità. No, per carità, io credo che da questa trasmissione e dagli interventi che ho udito, diciamo, probabilmente si ridimensiona quella che veniva in questi giorni vista come un atto quasi di totale illegittimità da parte dell'università. Noi abbiamo fatto piuttosto invece un atto che va nella linea della riforma e della modernizzazione degli studi. Aggiungo un'ultima considerazione, se mi consente, su quanto è stato detto dalla professoressa Potestio sull'applicazione della legge, e faccio riferimento in particolare al problema della durata del mandato rettorale. Io sono forse l'unico rettore italiano che al momento dell'elezione ha chiesto al proprio corpo elettorale un mandato unico di 5 anni, nessun'altra università italiana l'aveva in quel momento. Devo dire che non ce ne siamo pentiti come Ateneo, in relazione al fatto che solo un mandato unico consente al rettore di impostare insieme al governo accademico una vera azione di cambiamento e di modernizzazione dei processi senza sottostare alla ricattabilità della elezione di secondo mandato, naturalmente garantendo la flessibilità e l'autonomia, che pienamente condivido, delle articolazioni della didattica, le facoltà e della ricerca, i dipartimenti. E questa è stata proprio la scelta, voglio dire, fondante del mandato del rettore, così come disegnata la riforma, che insomma 6 anni e la non ricandidabilità. 6 anni sono secondo me un po' tantini, però insomma va bene. Allora, io ringrazio il rettore La Galla, si è aggiunto il rettore della Sapienza di Roma, il professor Luigi Frati. Io adesso ho il dubbio che tutta questa cosa per cui abbiamo messo in piedi la trasmissione sia un po' falsata, perché abbiamo visto che il rettore Augello di Pisa, rispetto a quello che i colleghi di Repubblica, io non voglio dare giudizi, hanno scritto attribuendoglielo, ha usato espressioni più, diciamo, moderate, voglio dire così. Ora, siccome abbiamo chiamato il professor Frati, che ringrazio e saluto, perché nell'intervento a proposito dei provvedimenti presi da Palermo, almeno anche lui su Repubblica figurava come uno molto polemico, dicendo, leggo il virgolettato prima di dargli la parola, dicendo: l'università non è nata per fare cassetta e poi gli studenti fuori corso le tasse le pagano, questo va a compensare i tagli ministeriali, dobbiamo stare attenti agli studenti lavoratori. Ora però non vorrei scoprire che poi ci troviamo veramente tutti d'accordo, nel qual caso è stato comunque utile sollevare il problema, perché chi è in ascolto, gli offriamo una riflessione su una università che è l'unica al mondo che ha il 37% nel complesso nazionale di fuoricorso. Comunque, professor Frati, allora, come la pensa lei su questo problema di fuoricorso? Mi sembra che Repubblica ha molto semplificato quello che io ho detto. Io ho detto che ci sono fuoricorso e fuoricorso. C'è il fuoricorso di un anno dovuto al fatto che il professore non gli ha dato la tesi di laurea, perde tempo, in quel caso va sanzionato il professore e non lo studente. Poi c'è il fuoricorso che è il lavoratore, e allora noi per questo abbiamo preso una partecipazione sull'unica telematica pubblica che c'è, suppongo per esempio giurisprudenza e economia, e questo sarà obbligato a passare alla telematica se non vuole aggravio di tasse, nel senso che studia a casa, fa gli esami poi con i modi come si fanno con le telematiche, e quindi ha l'occasione di concludere i suoi studi attraverso uno strumento più moderno di quello tradizionale nostro. E poi c'è il fuoricorso, che è fuoricorso sul quale si è appuntata l'attenzione. Per questo noi prevediamo un inasprimento delle tasse fino ad arrivare al full cost, nel senso non c'ho nessuna intenzione di agevolare uno che sta lì fuoricorso per 5, 10, 20 anni senza capire perché. Io credo, cioè, nell'osservazione che ho fatto alla Repubblica, è che noi, dicendo fuori corso, non si ha una classe omogenea di persone. Per ognuna di queste va data una soluzione, nel rigore e nel fatto che non può l'università sobbarcarsi le spese per chi poi non ha voglia di far niente oppure ha problemi di tipo diverso. Questo viene fatto accompagnando lo studente alla sua esigenza, studente lavoratore, passi alla telematica, in modo che poi studiare la sera arrivando a casa a darti gli esami regolari. Se lo studente va fuori corso di un anno perché il professore gli ha dato la tesi di laurea, bisogna intervenire con i professori perché a tempo debito consente a uno studente bravo di concludere i suoi studi a tempo debito e non dover andare fuori corso per colpa di quello. Io questo ho detto a Repubblica. Professor Augello, rettore di Pisa, che pensa di questa articolazione in diverse fasce con diversi strumenti per ciascuna fascia dei fuori corso proposta adesso dall'intervento del rettore della Sapienza? Ma condivido assolutamente la sua analisi ed è quello che io intendevo al giornalista di Repubblica quando ho parlato di diritto allo studio legato a questa problematica, poi non so quale sia stato il virgolettato e lo ribadisco, quindi nessuna marcia indietro. Io dico un'università pubblica fornisce un servizio pubblico e ha differenti tipologie di studenti. Tutti vanno tenuti nella giusta considerazione. Il caso dei fuoricorso, come diceva bene Frati, è un caso articolato e ci sono varie motivazioni per le quali si va fuoricorso e soprattutto la durata del fuoricorso è diversificata. Io credo che ogni università al proprio interno fa queste riflessioni. Io per esempio tengo sotto controllo attraverso i nostri uffici statistici questo fenomeno e sono sì preoccupato del numero o della percentuale, se vogliamo meglio, dei fuoricorso sugli studenti regolari, ma so di dover intervenire in modo mirato. Sarebbe sbagliato prendere un provvedimento per tutti, perché le tipologie sono diverse. Poi ogni università nella propria autonomia può decidere di aumentare l'imposizione fiscale, può intervenire e deve intervenire per agevolare i percorsi di formazione anche di questa tipologia. Le tecnologie oggi ce lo consentono e quindi dobbiamo metterci su questa strada, insomma. Quindi sì, forse una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma insomma non siamo stati noi a fare tempesta. No, ma non è questo, ma poi ecco, voglio dire. Condivido quello che ha detto lei, forse è stato utile perché si chiarisce. È utile perché comunque il rilievo di questa incidenza così elevata è l'anomalia, continuo a dire l'anomalia rispetto a tutte le altre pagine, è stata molto forte. Le informazioni sulla circolazione stradale. Diamo subito corso alle telefonate, sentiamo innanzitutto Yesenia che chiama da Perugia. Buongiorno, sono Yesenia da Perugia, premetto sono una ragazza dell'Ecuador. Io sono arrivata in Italia e quando mi sono iscritta all'università sono rimasta colpita per il fatto di trovare ragazzi di 35-40 anni fuori corso. A mio avviso era una cosa terribile. Qui in Italia non si poneva il problema, mi colpisce che si parli di fuori corso sentendo i vari rettori, ma devo dire che all'università soprattutto io penso che abbia fatto comodo in qualche modo avere questo fuori corso, non hanno avuto la tempestiva giusta per risolvere questo problema. Dopo è venuto questo nuovo ordinamento chiamato così per risolvere appunto dei parametri che poneva l'Europa rispetto ai laureati italiani e in confronto di quei laureati europei. Quindi lei dice laureati... comunque giusto, no? Perché è un'anomalia, ho capito bene? Certo, perché io dico si parte dal presupposto che comunque è il sistema che ha permesso questa situazione. Adesso non so se è il rettore oppure il sistema italiano a livello universitario, però comunque è un problema che loro ce l'hanno perlomeno da 10 anni tutti che io sono arrivata in Italia. No, io ero arrivata qua già con un... Certo. Guardi, è un problema che si è creato con l'universalità degli accessi. Questo è un problema che quando abbiamo spalancato le porte di un'università che non aveva le strutture, i servizi, le risorse, l'impalcatura di diversi ordini di insegnamento tali da poter affrontare nel breve volgere di anni l'impatto di quell'enorme fenomeno di trasformazione, si è creato poi tutto il problema che tentiamo disordinatamente nel tempo, riforma dopo riforma, di mettere a posto, tra cui anche questo. Sentiamo invece Raffaele che ci chiama da Cosenza. Prego Raffaele. Io volevo portare la mia esperienza da fuori, da ex fuori corso, ormai ho 43 anni. Io mi sono laureato in ingegneria in 11 anni, anche con un voto molto alto. Dove? All'Università della Calabria. Sì. Dopodiché ho lavorato prima, ho un'esperienza nel privato, non mi è piaciuto lavorare nel privato. Ho fatto un concorso pubblico a Modena, dove sono arrivato primo. E allo scritto avevo così tanti punti di vantaggio sul secondo che mi potevo permettere anche di prendere il minimo dei punti all'orale. Siamo felici, ovviamente. No, questo significa, la mia testimonianza vuol dire che cioè, l'essere fuori, la preparazione non è inficiata dall'essere fuori corso. Poi non capisco quali sono stati i costi aggiuntivi che ho prodotto per la mia università, visto che da fuori corso ormai andavo soltanto a sostenere gli esami e basta. Mi sembra tutto sommato una polemica fatta soltanto per dar luce a chi la fa, in, una, ma, in un clima di ora Raffaele, di 4, cioè, non capisco qual è la polemica contro i fuori corso, che danno prodotti alla mia università, mettendoci un Raffaele, l'idea secondo me che gli iscritti che vanno a dare solo gli esami non costano è un'idea sbagliata, Raffaele. E se avessimo tempo per metterci con un bel calcolo, foglio di calcolo matriciale, le farei il costo marginale sul totale degli iscritti e sul bilancio della sua università. E posso garantirle che se è ingegnere sa di che cosa sto parlando. E non è vero che non costa niente. Perché l'idea che non costi niente il dover comunque far predisporre schemi organizzativi, didattici, numero di insegnanti proporzionati al numero del fuoricorso, quando i fuoricorso gravano, il Politecnico lei sa meglio di me, la percentuale si alza rispetto al totale delle altre facoltà, proprio per l'impatto molto pesante che ha l'ordinamento di studi e il fatto che quindi chi lavora ci mette parecchio di più, come nel suo caso. Ci sono anche fior di Politecnici, Politecnico di Torino e così via, i fiori all'occhiello tra i Politecnici che hanno una percentuale comunque elevata. Questo è una facoltà che si caratterizza per questo, ma non è vero che non costino, questo è il punto. E quindi questa è la risposta che le do io, Raffaele, ma capisco che dal suo punto di vista dica: io ci ho messo 11 anni, sono uscito con un'ottima formazione, ho vinto i concorsi e quindi difendo il mio diritto. Benissimo, la mia idea è che un limite comunque che sia pari al più 100% del totale degli anni previsti come minimo per il conseguimento del diploma, ecco, questo io lo considero ragionevole, oppure no. Antonio da Udine che dice? Buongiorno dottor Giannino, io le porto la mia di esperienza, io sono friulano, ho studiato a Trieste e mia moglie ha studiato a Udine, io ho fatto scienze politiche in una facoltà dove il numero dei fuoricorso era purtroppo alto e questo comportava comunque un certo tipo di peggioramento o comunque ritardo di tutto quello che era il processo e mi faccia dire anche a volte l'attenzione che... Cosa studiava? Scienze politiche e devo dire che la qualità dell'insegnamento dei miei professori è sempre stata molto alta e quindi questo va a loro vantaggio perché molte volte, ripeto, c'erano situazioni veramente dove in alcune lezioni eravamo anche 300-350 persone. Quindi lei quando era studente, se si fosse trovato di fronte un senato accademico che proponeva un limite di anni e un aggravamento delle tasse, lo avrebbe capito, lo avrebbe protestato? Assolutamente sì, l'avrei capito e condiviso. Poi però non dobbiamo nasconderci anche dietro a quello che realmente succede nell'università italiana, perché invece le porto l'esperienza di mia moglie che ha studiato medicina a Udine in una facoltà a numero chiuso tra parentesi, quindi anche sì, qui con un certo tipo di attenzione verso lo studente, un percorso di studi ineccepibile, 6 anni, 110 lode, arrivata alla scuola di specializzazione gli viene detto devi aspettare un anno perché c'è uno studente che ci ha messo di più per laurearsi e deve entrare prima lui. Allora capiamo anche... Ma per carità, qui non stiamo affatto, sarebbe un errore clamoroso sostenere che tutti i problemi di università o il più dei problemi di università sono rappresentati dal 37% dei fuoricorso. No, io non l'ho mai detto, non è questo il punto. Per mesi abbiamo organizzato almeno un dibattito alla settimana sulla riforma Gelmini, sappiamo che i problemi sono anche altri, però anche basta non negare questo perché questa è un'anomalia assoluta in tutti i paesi avanzati. Assoluta! Quindi non è che possiamo dire che in questo non dobbiamo vederla. Che dice invece Fabrizio dalla provincia di Firenze? Buongiorno, una testimonianza. Ma per come ho fatto io l'università, ho fatto architettura, non penso che l'università era strutturata per garantire allo studente di finire l'università in corso. Ho visto tesi di laurea richieste con un tempo minimo di 3 anni il restauro dei monumenti. Per cui non so, cioè la richiesta è validissima di abbassare il numero degli anni fuori corso, però prima di tutto andrebbe fatta pulizia, cioè se ci sono università che hanno percentuali altissime di fuori corso bisognerebbe indagare e magari sanzionare queste università, non so. Guardi, qui il problema si risolve secondo me con più autonomia e più capacità decisionale degli organi accademici, e Palermo è esattamente quello che fa, considerando improprio di avere un numero di fuoricorso eccessivo rispetto al totale. Abbiamo sentito il rettore, non con one fits all, cioè non si tratta di dire da Roma si decide tutto, non è questo lo spirito dell'autonomia della riforma e quello anche precedente. Spero di aver in qualche maniera fatto capire a chi ci ascolta che non si tratta di un provvedimento da nazismo economico, il diritto allo studio non c'entra niente, si tratta di diventare un paese un pochino più uguale agli altri, quindi per laurearsi, diciamo, dopo i 10 anni è meglio lasciare perdere. Bene, come avrete capito, d'ora in poi mi tagliano per via della pubblicità, quindi qui si interrompe, non saluto neanche tutto, a domani, Linea Generale Radio.